A bordo campo di Dario Ricci. Noi dentro il Ministero dell'Interno abbiamo un apposito osservatorio sulle questioni che riguardano il tifo razzista e tutto ciò farà parte del lavoro della Task Force Lega Ministero dell'Interno che oggi viene costituita e che avrà come obiettivo quello di garantire soprattutto l'accesso alle famiglie, ai bambini, ai giovanissimi. Quando la società possiederà, sarà proprietaria degli stadi, sarà cura della società stessa fare sì che tutto venga garantito in termini di massima sicurezza. E allora l'avete sentito dal ministro dell'Interno Angelino Alfano che ha in questi giorni incontrato i vertici della Lega Calcio. È in arrivo un'altra task force anti-razzismo, anti-violenza, è in arrivo la legge o quantomeno l'emendamento alla legge di stabilità per costruire nuovi stadi. Tutto questo dovrebbe essere la risposta italiana al problema del razzismo nei nostri impianti sportivi. Ebbene, a noi di A Bordo Campo ci è venuto però un dubbio guardando quello che succede all'estero. Hai visto mai che il problema non sono solo gli impianti, la qualità degli stadi, ma è soprattutto la gente che ci entra dentro? Non a caso lo stadio più bello che abbiamo attualmente in Italia è quello di Torino e ci apprestiamo a vivere due giornate con le curve della Juventus chiuse o quantomeno staremo a vedere, molto probabilmente riempite dai bambini, ma per i motivi che sappiamo, no? Perché le curve saranno chiuse per i cori discriminatori contro i tifosi napoletani, eccetera, eccetera. E allora però voglio invece raccontarvi queste storie di un calcio diverso, di un calcio che ce l'ha fatta, che mi sono capitati sotto gli occhi nel numero di Extra Time, l'inserto dedicato al calcio internazionale, direi splendido, non c'è altro aggettivo, di ogni martedì nella Gazzetta dello Sport. Prima storia arriva dall'Austria. 26 Minuten waren gespielt, 2-0 Austria Wien und jetzt der Abbruch in Scharen strömen da. Ecco, lo sentite, tifosi dell'Austria Vienna e del Rapid Vienna che hanno dato vita recentemente a degli scontri. Ebbene, il club dell'Austria Vienna ha deciso di rispondere col pugno di ferro alle intemperanze anche razziste dei suoi ultra, non ci siano stati in questi anni, ma al coro Adolf Hitler è mio amico, l'amministratore delegato dell'Austria Vienna Markus Kretschmer ha deciso che un certo limite era stato superato. Allora, alla Generali Arena, che è lo stadio dell'Austria Vienna, è stato redatto un nuovo regolamento. Non si possono intonare cori offensivi verso gli avversari e sono vietati striscioni e indumenti che inneggiano alla violenza, anche perché l'Austria Vienna è il club di riferimento della comunità ebraica di Vienna e l'Austria, lo sappiamo, è stata terra da sempre legata all'estrema destra e proprio lì è nato lo stesso Hitler. Allora, a gennaio la dirigenza dell'Austria Vienna ha individuato i colpevoli degli atti di razzismo e li ha cacciati dalla curva, ha messo al bando gli Usterbilk, gli immortali, il gruppo ultra nazifascista che di fatto spadroneggiava nella curva e la società ha anche diffidato questi immortali da usare i simboli e i colori del club. Tutto questo lo ha deciso l'Austria Vienna. Anzi, spesso nel racconto dell'amministratore delegato si legge su Extra Time che le istituzioni non è che siano state poi di così grande aiuto, però l'Austria Vienna lo ha fatto, gli Unsterblick sono immortali sì, ma fuori da quello stadio. Spostiamoci di qualche centinaio di chilometri. Germania, Borussia Dortmund, squadra vicecampione d'Europa. Ebbene, il Borussia Dortmund ha imposto il divieto di ingresso in qualsiasi stadio tedesco, ripeto, in qualsiasi stadio tedesco, fino al 30 giugno 2017, quindi per 4 anni, il massimo possibile in Germania, nei confronti di un tifoso che ha fatto il saluto nazista durante l'ultima partita casalinga della Bundesliga del club di Dortmund. Tifoso identificato dalle fotografie scattate allo stadio, identificato dal club, DASPO di 4 anni su tutto il territorio tedesco. Andiamo un po' più a est, nord-est, città al centro delle cronache calcistiche non solo in questi giorni, Parigi. Paris Saint-Germain au Parc des Princes ne leur a pas permis de vivre cet événement qu'ils attendent depuis 19 ans d'une belle maniera. Nous sommes tristes. Ebbene, quella che sentite è la voce di Jean-Claude Blanc, l'ex direttore generale della Juventus, ora direttore generale del Paris Saint-Germain, che commentava così nel maggio scorso gli incidenti causati dagli ultra parigini in occasione del festeggiamento per lo scudetto di Ibrahimovic e soci, incidenti che portarono alla sospensione di quella festa. Ebbene, nel febbraio del 2010 le faide interne al tifo del Paris Saint-Germain portarono addirittura alla morte di uno dei capi ultra della curva. A quel punto cosa fece il Paris Saint-Germain? Allora ancora presieduto da Lepreux e poi rilevato dai ricchi quatarioti che ora lo dirigono. Ebbene, fece scattare un piano di sicurezza, un piano che ha di fatto ora sradicato la violenza al Parco dei Principi, tanto che lo stesso piano è stato esattamente mantenuto dai nuovi proprietari, proveniente da tutt'altra realtà culturale e calcistica. Allora il club, con il sostegno del Ministero degli Interni, ha sciolto le associazioni ultra, ha cancellato immediatamente 13.000 abbonamenti delle curve violente, ha stabilito l'attribuzione aleatoria, casuale, attraverso il computer e nominativa dei posti, un tetto di acquisto a 4 biglietti, 6 al massimo per le zone riservate ad adulti con minorenni e famiglie, il divieto di striscioni. Una volta che si è ristabilito un clima più costruttivo, sono tornati gli abbonamenti, ma sempre a collocazione casuale, così che tu non puoi andare allo stadio con i tuoi 40 amichetti a far casino. E poi lista di 2.000 indesiderati allo stadio, colpiti da altrettanti DASPO, quindi da provvedimenti di esclusione dallo spettacolo calcistico. Ultimo esempio, forse il più prestigioso, in quello che è uno dei grandi teatri del calcio europeo, andiamo a Barcellona. Anche il Camp Nou, dove lo spettacolo calcistico viene goduto come fosse il teatro dell'opera, i suoi problemini con gli ultra li ha avuti, in particolare con i Bolsos Nois, un gruppo violento e fascista che era di fatto tollerato e anzi finanziato dal presidente Joan Gaspart. Una volta che Gaspart è andato via e che nel 2002 è stato eletto Joan Laporta, ebbene, il nuovo presidente ha rotto tutti i legami con i Bolsos Nois, li ha esclusi dallo stadio, ha vissuto un anno con una scorta personale in seguito alle minacce di questi signori. Ora il problema sembra risolto, il Camp Nou è uno dei gioielli del calcio europeo e mondiale. In diretta con noi oggi ospite qui a Radio 24 a bordo campo Luca Curino, responsabile di Extra Time, l'inserto del martedì della Gazzetta dello Sport dedicato al calcio internazionale, che ci ha proprio segnalato le storie che vi ho appena raccontato. Ebbene Luca, c'è un comune denominatore, no, di queste storie di calcio e di rapporti con gli ultra, che di fatto, se si vuole questo legame con gli ultra più spericolati e più pericolosi, si può rompere, e all'estero ci sono dei club che lo stanno facendo. Sì, senz'altro, club anche importanti come Barcellona ormai 10 anni fa, il Paris Saint-Germain recentemente, l'Austria Vienna, anche proprio storia degli ultimi 6 mesi, anche il Chelsea per esempio, con questa sua amministratrice delegata Marina Granovskaya, per esempio le ultime giornate della scorsa stagione ha revocato la vendita dei biglietti agli ultra. Quindi insomma, club importanti che hanno affrontato e risolto il problema. Noi intanto però ci apprestiamo a vivere il 1° dicembre un Juventus Udinese con entrambi le curve chiuse. Ora forse saranno riempite dai bambini, ben vengano, ne avevamo parlato proprio qui a bordo campo con Gianni Merlo, ma insomma è chiaro che non è la soluzione ideale, no? E in quello che doveva essere lo stadio gioiello, in quello che doveva essere lo stadio che avrebbe cambiato il volto del calcio italiano, mi viene il sospetto, Luca, che non si tratta, il problema non sono solo gli impianti, ma forse chi li riempie. Sì, decisamente chi li riempie e la volontà anche e soprattutto di chi li gestisce. Il caso della Juventus è particolarmente emblematico, è sicuramente lo stadio più avanzato che c'è in questo momento in Italia, è nato come uno stadio per famiglie, voleva essere uno stadio per famiglie nel progetto di Jean-Claude Bank, che adesso non è più a Torino. A Torino è successo quel che è successo, adesso Jean-Claude Bank lavora per il Paris Saint-Germain e a Parigi è riuscito a vincere la battaglia contro gli ultra con delle manovre anche drastiche. È singolare appunto che ci sia questa persona, questo minimo comune denominatore fra Juventus e Paris Saint-Germain, che è riuscita a far funzionare in Francia quello che da noi non riusciamo a far funzionare. Altro elemento comune delle storie che avete raccontato e che oggi abbiamo riproposto qui a bordo campo è il fatto che si tratta di iniziative private. Qui in Italia ci ritroviamo intorno al tavolone con i vari ministri, con l'ennesima task force che sta per partire. L'Austria-Vienna, il Paris Saint-Germain, il Barcellona, il Borussia Dortmund anche, perché abbiamo visto come ha trattato questo tifoso reo di aver fatto il saluto nazista. Ebbene, sono società private che prendono l'iniziativa e si strutturano per risolvere in prima persona questo problema, senza l'aiuto delle istituzioni, anzi spesso anche un po' osteggiate. Sì, questa è stata sicuramente la cosa che più mi ha colpito nella realizzazione di questa pagina sul problema come è stato affrontato all'estero, cioè il fatto che lì non aspettano l'aiuto dello Stato, del governo, una legge, una tessera del tifoso, una legge sugli stadi, eccetera, eccetera. No, sono le società che affrontano il problema, lo risolvono nel giro di 6 mesi. Certo, ci sono casi come nel caso di Laporta, che aveva fatto questa cosa 10 anni fa al Camp Nou, ma anche come caso in casa nostra di Lotito con la Lazio, in cui questi dirigenti purtroppo minacciati dagli ultra più violenti sono costretti a girare sotto scorta, però poi insomma la roba a un certo punto termina e la gente va allo stadio tranquilla. Si può fare, ce lo dimostrano le storie che vi abbiamo raccontato dell'Austria-Vienna, del Barcellona, del Paris Saint-Germain, del Borussia Dortmund, e ce l'ha ricordato oggi Luca Curino, responsabile di Extra Time, l'inserto del martedì dedicato al calcio internazionale della Gazzetta dello Sport. Grazie Luca per essere stato nostro ospite, e allora ci vediamo martedì in edicola, è appuntamento imperdibile, direi. Senz'altro, vi ringrazio. A bordo campo. Devo confessare agli amici di A Bordo Campo che c'è un blog, un sito molto particolare da cui prendo spesso spunto per raccontarvi poi le storie del calcio e dello sport che contano. Ebbene, questo blog è Dinamo Babel e ha segnalato in questi giorni una storia davvero particolare, che è quella di cui oggi parliamo. Perché? Perché c'è stato un incontro a Zurigo presso la sede della FIFA tra due presidenti di due federazioni calcistiche che convivono bene o male, e probabilmente in futuro conviveranno meglio proprio dopo questo incontro, nella stessa isola. Quest'isola è Cipro, che tra l'altro è uno dei paesi emergenti a livello europeo dal punto di vista calcistico, e questa storia che vi racconteremo oggi è anche un po' lo spunto per parlare di quel calcio nascosto, ma che poi pesa molto a livello politico, pesa anche a livello di rappresentatività nell'ambito della FIFA e dell'UEFA, e che piano piano cerca di costruirsi un futuro diverso e migliore. Allora, nostro ospite oggi qui a Radio 24 A Bordo Campo, l'ideatore di questo blog di Dinamo Babel, Damiano Benzoni. Ben ritrovato Damiano a bordo campo. Buongiorno Dario, grazie. Allora Damiano, pochi giorni fa hai proprio pubblicato questo articolo in relazione a un incontro che si è svolto recentemente a Zurigo presso la sede della FIFA tra i presidenti delle due federazioni che controllano di fatto il calcio a Cipro. Che cosa è successo? Spiegaci un po'. Nell'isola di Cipro convivono due repubbliche. La Repubblica di Cipro, che è a maggioranza greca, che è riconosciuta da tutto il mondo, e la Repubblica Turca di Cipro Nord, che è una repubblica autoproclamata, è nata nell'83 e al momento è riconosciuta dalla sola Turchia, però funziona e ha il controllo del suo territorio. Queste due repubbliche sono anche divise calcisticamente, due Federcalcio. Quindi una Federcalcio che membro FIFA a tutti gli effetti e che abbiamo anche visto qualche impresa delle loro squadre. C'è stato l'Apoel Nicosia un paio di anni fa che ha raggiunto i quarti di finale in Champions League prima di fermarsi contro il Real Madrid. E invece la Federcalcio di Cipro Nord non è membro UEFA, non è membro FIFA e vive in una condizione di assoluto isolamento. Quindi insomma c'è la necessità di far riavvicinare queste due parti dell'isola sotto il profilo politico ma anche sotto il profilo calcistico. Sì, è stato appunto siglato un accordo, anche se entrambi i presidenti federali hanno preferito chiamarlo, diciamo, una comune intesa più che un accordo, ovvero hanno deciso di trovare un terreno comune dal punto di vista calcistico, una soluzione provvisoria fino a quando verrà trovata una soluzione politica poi per la faccenda. E quindi è stato stipulato che la federazione turco-cipriota dovrebbe diventare membro della federazione cipriota della parte greca, mantenendo comunque la possibilità di organizzare i propri campionati, di dirigere la propria attività calcistica, facendo comunque entrare appunto i club e i giocatori ciprioti anche a livello di trasferimenti, allenatori, arbitri, programmi di sviluppo al calcio vero, al calcio della FIFA. Ecco, interessante questo aspetto che sottolinei, perché se di Cipro qualcosa dal punto di vista calcistico conosciamo, io ricordo nella mia giovinezza una terribile partita ufficiale dell'Italia fresca campione del mondo di Berzot, che a Cipro finì la partita 1-1. Gli azzurri erano stati tra l'altro il giorno prima in visita a Beirut al contingente italiano e ricordo nelle cronache che, se non sbaglio, ci salvò un gol di Graziani, a centrocampo c'era un Tombino, tanto per capirci com'era il calcio allora e come invece è evoluto il calcio cipriota, quello della FIFA oggi. Di Cipro del Nord si sa ben poco, anche perché appartiene, no, come ben racconti su Dinamo Babel, Damiano, a quelle nazioni di fatto extra FIFA, che non sono nazioni ma che quasi sviluppano autonomamente una loro lega calcio, una loro federazione. Insomma, Cipro del Nord è giusto un esempio, ce ne sono altre, no? Sì, Cipro del Nord fra l'altro è stata considerata sempre una delle potenze. L'anno scorso la nazionale ha partecipato alla Viva World Cup, che è appunto una sorta di mondiale dei paesi non riconosciuti, e ha perso in finale contro il Kurdistan iracheno che ospitava il torneo. È una nazionale che ha una lunga tradizione, fin da prima dell'indipendenza c'è stata una nazionale rappresentativa dei turchi di Cipro che ha giocato anche spesso partite contro la Turchia o contro alcuni membri FIFA. Ultimamente ha cessato un po' l'attività, però appunto ci sono varie altre nazionali che si dividono anche per le possibilità di partecipare poi alla FIFA. Gibilterra per esempio è recentemente stata ammessa all'UEFA e ha appena fatto il proprio esordio da membro ufficiale UEFA, pareggiando 0-0 con la Slovacchia. Con un clamoroso pareggio in Slovacchia in trasferta 0-0, e mi hai confessato in Portogallo, perdona, campo neutro, e mi hai confessato, adesso gli ascoltatori lo devono sapere, che l'hai vista in diretta streaming, un eroe assoluto, il canale nazionale di Gibilterra. Vederti Slovacchia Gibilterra, sei un eroe assoluto, eh? Senti, interessante anche appunto, partendo da questo spunto che ci dai, sottolineare che c'è un gruppo di paesi che è lì per entrare nella FIFA, no? Di realtà calcistiche, perché appunto non sono sempre veri e propri paesi riconosciuti, e che la FIFA divide questa ventina di territori in tre protocolli. Basti pensare che nel primo di questi gruppi, credo, diciamo, quello meno problematico, ci sono le isole Marshall, la Micronesia, il Principato di Monaco e cose di questo. Si tratta di stati indipendenti che però non hanno ancora compiuto un'affiliazione alla FIFA. Poi nel secondo gruppo territori non indipendenti, ad esempio Martinica, Marianne Settentrionali, Isole Reunion, e nel terzo direi casi un pochino più spinosi, no? Perché Cipro del Nord e anche la Catalogna, il Kosovo, l'Ossetia del Nord e la stessa Gibilterra. Quindi è interessante sottolineare che c'è un percorso, una politica calcistica, una diplomazia calcistica internazionale che lavora tutti i giorni nell'ombra per sciogliere questi nodi. Certo, ovviamente il riconoscimento dal punto di vista calcistico di una nazione può essere problematico perché diventa anche un riconoscimento in parte politico. La missione di Gibilterra all'UEFA è stata osteggiata per anni, per esempio dalla Spagna. Il Kosovo ancora sta cercando una soluzione e il presidente della Federcalcio serba Tomislav Karadžić ha detto che finché non saranno membri delle Nazioni Unite loro si opporranno all'ingresso del Kosovo nel calcio che conta. Cipro del Nord infatti sta cercando una soluzione di compromesso perché appunto pur di combattere questo isolamento calcistico è disposta a rientrare nell'alveo della federazione cipriota. Il fatto è che nell'ultimo decennio sia la FIFA sia la UEFA hanno stretto molto i bulloni sulla missione di queste nazionali, quindi hanno decretato praticamente che per essere membro FIFA bisogna essere anche un membro delle Nazioni Unite, anche se poi sono ammessi prima di questo nuovo statuto sono state ammesse delle realtà che non sono membri ONU, basta pensare alle isole Faroe, ma anche alle quattro nazionali del Regno Unito che hanno ciascuna la sua Federcalcio. Insomma, sono i confini elastici, diciamo così, della diplomazia del pallone e non solo di quella. Beh, avete sentito quante cose si imparano parlando neppure di un'isola, di uno spicchio del nord di Cipro. Damiano Benzoni, grazie per essere stato nostro ospite e per averci raccontato questa storia davvero particolare. Ti leggiamo su Dinamo Babel e ti riaspettiamo presto qui a bordo campo, però. Molto volentieri. Anche per l'appuntamento di oggi con A Bordo Campo è tutto, vi ricordo che potete riascoltarci dal nostro sito web www.radio24.it, scriverci alla mail abordocampo@radio24.it e dialogare con noi attraverso il blog di A Bordo Campo, sempre sulla nostra pagina web. L'appuntamento come sempre per domenica prossima alle 16.30 e in replica il sabato mattina alle 6.15. Ancora una buona giornata da Dario Ricci.